edizione. Le 6, 13 minuti e 45 secondi, un aggiornamento che arriva dagli Stati Uniti. I servizi segreti americani stanno investigando e hanno confermato che un proiettile ha colpito una finestra esterna della Casa Bianca. È stato fermato da un vetro antiproiettile e poi nel terreno intorno ne è stato trovato un altro di proiettile. Si erano sentiti dei colpi di pistola nella giornata di venerdì, poi sono iniziate le ricerche, appunto i servizi segreti hanno confermato oggi di aver trovato questo proiettile. Vedremo se ci saranno evoluzioni nelle indagini. Naturalmente per adesso ci fermiamo con la viabilità e ci ritroviamo subito dopo per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 16 minuti e 52 secondi. Vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, almeno dei principali. Naturalmente il Sole 24 Ore sceglie l'apertura sui mercati, vola lo spread italiano, Francia e Spagna da record, questo è il titolo che troviamo in alto, con un ampio spazio a quello che viene definito dossier Europa, a partire dal pezzo di Marco Mussanè, la tripla A francese, ossia il rating francese appeso ad un filo. Commento firmato da Adriana Cerrettelli: non fate più i furbi. Questo quello che troviamo in alto, però il titolo forte dedicato al governo, quasi a centro pagina, governo Monti al via, ora le riforme. Oggi il premier incaricato va da Napolitano per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. In prima pagina la possibile squadra, con un quadro abbastanza esaustivo delle ipotesi in campo, ne torneremo a parlare più avanti nel corso di prima edizione, proprio del cosiddetto Toto Ministri. Commento dedicato a tutto ciò è a firma di Fabrizio Forché, tutto insieme, tutto presto, ma c'è spazio anche per la finanza, a partire dai conti di Finmeccanica, il rosso per 358 milioni, ve ne abbiamo parlato ampiamente ieri, il titolo crolla del 20%, salta il dividendo, al via il piano di cessioni, ma anche il Sole 24 Ore presenta un'intervista all'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, dopo le notizie di ieri l'altro, come sapete, ossia il nuovo aumento di capitale e i tagli al personale. Questo il quadro per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera apre con un Monti al Quirinale per il nuovo governo e un commento di Gian Antonio Stella che si intitola Echi dalla palude. Il dossier sviluppo a Passera viene dato praticamente per certo dal Corriere della Sera, a Corrado Passera. Pesano i veti dei partiti su Amato e Letta, come abbiamo già sentito anche all'interno del giornale radio. Noi Italiani Democratici ancora un po' immaturi, è il titolo di un commento a firma di Piero Ostellino, e Francesco Verderami invece racconta la notte della lista. A centropagina il titolo di Finanza, quindi perfettamente invertito rispetto al Sole 24 Ore. I tassi dei BTP superano il 7%, sotto attacco Francia e Spagna. Picco dello spread a 536, i nostri titoli in zona rischio, la borsa frena. Qua a firmare sono Massimo Mucchetti e Federico Fubini, due pezzi, il primo così la speculazione riesce a battere la difesa degli stati, Berlino ora teme che il contagio arrivi anche a Parigi. Grande foto per Gigi Buffon accanto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la bandiera, e Alessandro Bocci che racconta il discorso di Napolitano commuove Mario, aperta parentesi, Balotelli, chiusa parentesi. Ma abbiamo anche una notizia che arriva dalle vicende del San Raffaele, un po' passate sotto traccia in quest'ultimo periodo. Un arresto per i fondi neri, raccontano Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. In carcere il faccendiere Daccò, indagato per bancarotta, anche Don Verze. La Stampa, profondo rosso per, scusate, l'apertura è Monti ce la fa oggi il governo, consultazioni chiuse, c'è l'ok dei partiti, Maroni sancita la rottura tra Lega e PDL, il professore, tutti disponibili a fare sacrifici. Partiti, non è tempo di veti, ammonisce in un commento Marcello Sorgi. A centropagina anche una serie di servizi, tra cui un retroscena di Fabio Martini per l'economia, una cura shock. Il premier in pectore assicura: non mi presenterò alle elezioni. Anche qua viene dato per certo Corrado Passera al Ministero dello Sviluppo. Intervista aderita: il rischio un leader populista, il berlusconismo è finito, dice l'esecutivo che nasce è il solo possibile. Grande foto a centropagina sulla cacciata degli indignados di Occupy Wall Street. Anche di questo, come si diceva, vi parleremo più avanti, perché poi ci sono aggiornamenti dalla serata di ieri. C'è spazio anche per Il Profondo Rosso per Finmeccanica. E interessante questa vicenda, l'elenco della difesa. Si parla dei testimoni per il caso Ruby. Tra questi ci sono Clooney e Ronaldo. La Repubblica: nasce il governo Monti, ora sacrifici, via libera anche dalle parti sociali. Nella squadra spunta Passera, fuori Amato e Letta. C'è il diario della crisi, a firma di Claudio Tito, che lo sta firmando praticamente sempre in questi giorni. La linea Maginot: niente politici. E l'analisi è di Barbara Spinelli, invece: la scommessa di un tecnico. C'è spazio ovviamente anche su Repubblica per quello che sta succedendo sui mercati, e che vi ricordo ancora una volta approfondiremo più avanti, vedremo di andare nel dettaglio su quello che è successo con Andrea Greco ed Elena Polidori, che firmano i mercati ancora in altalena. Milano chiude a meno 1, il commissario europeo Rehn pericolo contagio, il BTP al 7%, lo spread fa paura e l'allarme che si estende a Spagna e Francia, e sembra essere veramente la Francia in queste ore il tema. Vi segnaliamo sempre dalla Repubblica, ma anche perché ve ne abbiamo parlato ampiamente non solamente ieri, le vicende che stanno accadendo ai repubblicani, gli si dedica un servizio a firma di Vittorio Zucconi: gaffe repubblicane, una risata seppellisce i nemici di Obama. Insomma, vi abbiamo fatto sentire la gaffe di Rick Perry nei giorni scorsi, e ieri quella di Herman Cain, in serie difficoltà nel capire, nello spiegare quali fossero le strategie americane per la Libia. Questo il quadro alla Repubblica, che riporta naturalmente anche notizie da Occupy Wall Street. Nasce il governo Monti, è il grande titolo del Messaggero. Oggi al Colle con la lista dei ministri, c'è Passera, niente politici. Anche qua a centropagina ancora tensione sui mercati, anche la Francia nel mirino. Luca Cifoni scrive un pezzo nel quale dice: si riparte da ICI e pensioni. C'è Il Profondo Rosso per Finmeccanica e un caso che è interessante, lo racconta Mario Aiello: Galan fino all'ultimo giorno, le nomine prima degli scatoloni. E questo è un caso che sarà da approfondire e da leggere. Un'occhiata anche ai quotidiani internazionali, come potrete ben immaginare. Il New York Times dedica amplissimo spazio alle vicende di Occupy Wall Street. La grande attenzione sia del New York Times che del Washington Post è su dove andrà a finire questo movimento, adesso che non ha più un posto dove stare, nel senso che a Zuccotti Park ci si può rimanere ma senza dormirci. Il Washington Post titola: il movimento Occupy diventa esso stesso il problema, la sfida, mentre il New York Times dice: i contestatori fronteggiano un futuro incerto. I giornali economici, il Financial Times parla un po' di tutta Europa e sceglie un titolo che dice che i bond dell'Eurozona, le obbligazioni di Stato dell'Eurozona sono state colpite da una massiccia serie di vendite e il timore degli investitori è che si arrivi ai paesi centrali dell'Eurozona. Questo il quadro si segnala naturalmente anche il lieve calo dei mercati asiatici proprio sui timori europei. Il Wall Street Journal dà un'altra indicazione e ci dice che è la paura di una recessione quella che sta spaventando l'Eurozona. Da segnalare naturalmente anche ampio spazio alla vicenda di Occupy Wall Street, anche su Wall Street Journal, che dice insomma i contestatori guardano appunto al futuro del movimento. Questo il quadro dei quotidiani internazionali. Chiudiamo velocemente con quelli inglesi che tendono ad aprire con una vicenda di cronaca interna, anche se abbastanza interessante, perché è un classico cold case, che una vicenda sembrava fatti avvenuti nel 1992, un ragazzo nero ucciso ad una fermata dell'autobus, Stephen Lawrence. Che cosa è successo? Che hanno fatto nel 2007, hanno riesumato il corpo, hanno fatto delle analisi e hanno trovato due colpevoli, ed è peraltro un caso di omicidio razzista, ucciso per il colore della pelle. Prima edizione. Le 6, 34 minuti e 57 secondi, quindi il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 16 novembre, questa è la prima edizione di Italia in controluce. Terza puntata del viaggio di Italia in controluce tra i pretacci, i preti che vivono nelle periferie delle grandi città. Don Gallo lavora a Genova, lo ha intervistato per noi Giacomo Segantini. Nasco sotto l'influenza di un regime clerico fascista, famiglia di operai, povera, 15 anni ero già in marina, via via mi rendo conto di cos'è la guerra. Mio fratello era tenentino del Genio Pontieri e per me era il mio mito. Nel 43 era una distanza a Milano per sbaraccare le macerie dei bombardamenti e scoppia l'8 settembre. Mio fratello dopo un paio di mesi arriva a casa e la mamma gli dice: cosa hai deciso? E lui dice: io ho già deciso, ho scelto la resistenza. Ecco che comincio ad attingere dei valori. Quando è avvenuto l'incontro con i salesiani? Siamo del 47, mi ricordo ancora il nome e cognome di questo giovane salesiano, Don Piero Doveris, il quale ho visto il nuovo rapporto tra educatore e educando, e allora incontrai Don Bosco. Mamma ci si mise le mani ai capelli e dice: ma tu ormai sei un uomo, sei sperimentato, dove vai, ci stai due giorni? Invece ci sono stato ordinato prete nel primo luglio del 59, ho incontrato Don Bosco e con Don Bosco ho incontrato Gesù. Da diacono chi vedo sul trono pontificio Papa Giovanni XXIII, e poi il concilio che si muove, tant'è vero che io del 65 gennaio scelgo di uscire dalla congregazione e chiedo al mio vescovo di Genova, il Cardinal Siri, di essere accolto per stare in più di mezzo alla gente. Vado a finire nella parrocchia del Carmine, a 100 metri da Via del Campo. Che influenza ha avuto su di lei Fabrizio De André? Continua a dire che è un quinto evangelo, che è il Vangelo di André. Per me la frase in direzione ostinata contraria è la sintesi evangelica. Il cristiano che piglia coscienza, che cammina con gli uomini e le donne del suo tempo, nel suo quartiere. E io che avevo i valori della resistenza, della Costituzione, mi ritrovo col mio grande Vangelo, sempre da verificare ogni giorno, e dall'altro ormai la Costituzione. Io viaggio con due bandiere, con la bandiera come laico, con la mia coscienza civile, la partecipazione politica. Avevo incontrato Don Milani. Cos'è la politica, Don Lorenzo? E lui mi disse: è uscire tutti insieme dai problemi, ma con una priorità, a partire dagli ultimi. Allora vedi, no? Questi incontri, e soprattutto ho trovato finalmente, dopo il mio curriculum studioso, quando mi chiedono a quale università si è laureata, io subito gli ho la strada. la strada, quindi mi sento che Gesù non fonda nessuna religione, non fonda nessuna organizzazione, però Gesù visita tutte le culture, tutte le religioni, soprattutto si incontra per la strada, si incontra e ascolta e quindi non fa la guerra, non erige muri, dà la parola. Poi ecco perché io sono presente, faccio delle scelte, io ho preso il diploma da partigiano del generale Alexander e partigiano vuol dire stare da una parte. Prima edizione in Italia incontro luce, torniamo oggi 13:30 a Radio 24. Le 6:38 minuti, 35 secondi, adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la pagina dagli Stati Uniti con le vicende di Occupy Wall Street, un movimento che ha dato, come dire, che si è un po' espanso in tutto il pianeta e che è in una fase decisiva da ieri, da quando la polizia ha deciso di sgomberare. Gli aggiornamenti con la nostra Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno, sì, ieri la polizia ha deciso di sgomberare, ma c'è stata un'altra notte di tensione a Manhattan dopo quella di ieri, appunto, quella dello sgombero, perché i manifestanti, i cosiddetti indignati americani, stanno cercando di fare rientro nello Zuccotti Park a Manhattan, dal quale sono stati allontanati. Un giudice federale della Corte Suprema di New York ha infatti stabilito che i manifestanti possono rientrare nel parco per protestare, ma non per campeggiare, quindi senza le tende e i generatori di corrente che hanno avuto fino a ieri, quando la polizia in assetto antisommossa li ha fatti sgomberare. Cos'è successo dopo questo sgombero? Che ci sono stati ovviamente movimenti di avvocati vicini al gruppo di Occupy Wall Street che hanno contestato la decisione della polizia di bloccare l'accesso al parco, facendo riferimento tra l'altro al primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, quello che garantisce la libertà di parola e stampa e anche il diritto di riunirsi pacificamente. Poi è arrivata questa decisione del giudice federale che ha detto che i manifestanti possono rientrare nel parco ma senza campeggiare, e da lì è rinata tutta il fermento e l'agitazione attorno a questo Zuccotti Park. Ora, che cosa faranno i manifestanti di New York? Ancora non è dato saperlo, appunto perché, come dicevamo, c'è molta tensione nell'area anche in queste ore. Quello che sappiamo è quello che è successo in California, a Oakland, dove i manifestanti, sempre appartenenti al gruppo, diciamo, di Occupy Wall Street, sebbene stiamo in California e non a New York, sono rientrati per la terza volta a questo punto nel luogo in cui campeggiavano per protesta, un luogo dal quale sono stati sgomberati appunto già due volte, nel quale gli è stato detto che non potevano campeggiare, ma nel quale loro stanno attualmente di nuovo campeggiando dopo uno sgombero avvenuto ieri, quindi proprio come a New York. Potrebbe riaccadere lo stesso a Zuccotti Park, bisognerà vedere qual è la forza che il sindaco di New York Bloomberg intende mettere nel disperdere il movimento. Simone. Grazie Laura per questi aggiornamenti, buona giornata e noi passiamo a parlare di Italia. Passiamo a parlare d'Italia naturalmente con quel che succede per quanto riguarda la formazione del nuovo governo. Innanzitutto buongiorno alla nostra Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Simone, a te e agli ascoltatori. Vertice notturno, però come prima cosa ci vogliamo sentire un pezzo di quel che ha detto il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Monti, sulle prospettive dell'Italia, sulle prospettive della crescita. Sentiamo. Ho potuto riscontrare in tutti la piena e matura consapevolezza della attuale emergenza. Allo stesso tempo sono rimasto colpito positivamente dal senso di responsabilità e dalla decisa volontà di dare risposte condivise ed efficaci, capaci di gettare le basi per una crescita economica, sociale e civile stabile e duratura. Questo mi sembra dia il senso della conclusione delle consultazioni da parte di Monti. Si fanno molte ipotesi naturalmente, Maria Luisa, sul quadro sulla composizione di questa squadra di governo. C'è stato appunto un vertice notturno. Che cosa è successo? Sì, un vertice di tre ore si è è concluso a tarda notte tra Monti e Alfano, e Alfano vertice all'esito del quale, a causa dei veti incrociati, sembrerebbe ormai definitivamente tramontata la possibilità della presenza di Gianni Letta e Giuliano Amato nel nuovo esecutivo. Nella squadra di governo, in cui non è stato ancora sciolto il nodo delle presenze di ministri tecnici, potrebbe esserci una novità invece per quanto riguarda la giustizia, con il nome di Paola Severino, noto avvocato penalista, vice rettore della LUIS, nome circolato in ambienti del PDL proprio mentre era in corso il vertice a Palazzo Giustiniani. Per l'economia confermato l'interim dello stesso Monti, con 4 vice ministri di peso, tra cui il rettore della Bocconi Tabellini e il direttore generale del Tesoro Grilli, mentre per l'altra new entry dell'ultima ora circola il nome di Corrado Passera, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che dovrebbe essere nominato allo sviluppo economico con delega anche su commercio estero e ambiente. A completare la squadra che dovrà mettere mano alle riforme economiche è Elsa Fornero per il Ministero del Welfare. Per l'istruzione resta in pole position Francesco Profumo, presidente del CNR, e per i beni culturali Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che assumerebbe anche le deleghe per il turismo. Per il Viminale è salito il nome di Alessandro Panza, già vice capo della polizia e direttore della Criminal Pol, ma resta nella rosa anche quello di Anna Cancellieri, ex commissario prefettizio di Bologna, oggi a Parma. Questo dunque il quadro con le novità delle ultime ore. Per conoscere i nomi dei 12 ministri che dovrebbero comporre il nuovo governo basterà aspettare fino alle 11 di questa mattina. A te, Simone. Sì, grazie Maria Luisa, e noi tra l'altro vi faremo sentire in diretta quello che succederà naturalmente quando ci sarà l'uscita del professor Monti con appunto il quadro della compagine governativa. Prima edizione. Le 6, 46 minuti e 45 secondi, veniamo dunque a questa difficile giornata di ieri, ancora una volta sui mercati, che come sappiamo non ha riguardato solamente l'Italia. Dunque facciamo un punto con la nostra Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Sì, ieri i listini europei hanno vissuto ancora una giornata di ribassi. Gli investitori hanno guardato intanto all'Italia, ancora una volta, e al cammino di Mario Monti nel formare il nuovo esecutivo. Questa osservazione ha riportato i rendimenti italiani in rialzo. Il rendimento sul titolo decennale ieri è tornato a superare la soglia del 7% e il famigliorato spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi con scadenza a 10 anni, è ritornato a salire sopra i 530 punti base, con la Banca Centrale Europea che è intervenuta di nuovo ad acquistare bond italiani. Però, come dicevate, l'attacco ribassista ormai insidia ufficialmente anche altri paesi, in primo luogo la Francia. Il bond governativo di Parigi si è portato ad un rendimento record, almeno secondo i parametri francesi, del 3,62%, e il differenziale di rendimento fra gli OAT francesi, che sono i titoli decennali appunto transalpini, e il decennale tedesco è salito a 191 punti base, mentre quello con i bonus spagnoli è a 455. Ieri ci sono stati alcuni fattori interessanti che hanno inciso negativamente sulla giornata del mercato. C'è stato un esito deludente dell'asta di titoli a 12 e 18 mesi in Spagna, con il Tesoro che non è riuscito a collocare completamente il target che aveva stabilito. Risultato ugualmente insoddisfacente anche per un'asta belga di titoli ad un anno, e questo naturalmente ha comportato un aumento della preoccupazione per la mancanza di questa rete di protezione credibile per il mercato dei titoli di Stato, che potrebbe essere rappresentata dal fondo Salva Stati, visto che continuano le difficoltà nell'ampliare tecnicamente appunto questo, chiamiamolo così, contenitore. Gli investitori continuano a cercare titoli tedeschi. Ieri il rendimento sul titolo a 2 anni della Germania è sceso ad un nuovo minimo storico, allo 0,3%, quindi si cerca questo titolo, ma questo appunto è ancora un segnale di tenuta dell'intera zona euro, e questo a sua volta ha comportato ieri una discesa del rapporto di cambio tra euro-dollaro sotto quota 1,35. Le borse hanno chiuso male, Milano ha chiuso con un ribasso di oltre un punto, anche se è arrivata a perdere oltre il 3% ad un certo punto della giornata, trascinata a ribasso anche da alcune storie come Finmeccanica e Unicredit, ma in ogni caso c'è ancora massima attenzione e grande allerta appunto sull'andamento generale a questo punto di tutta l'Europa. Simone. Grazie, grazie Deborah Rosciani, e vedremo che cosa succederà nel corso della giornata di oggi, se questa tensione si allenterà naturalmente. Grazie Deborah, buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie a voi. Allora, prima di chiudere, un paio di aggiornamenti arrivati nella notte. Il primo arriva dall'estero, dal Pakistan, dove almeno 10 persone sono state uccise in un attacco missilistico di un aereo senza pilota americano, un drone, nel distretto del sud Waziristan, ancora una volta nel nord-ovest del Pakistan. Questo è quello che riferisce l'ANSA, citando una fonte di intelligence. E per quanto riguarda invece l'Italia, la Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione di usurai e arrestato 10 persone. Siamo a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Ed è veramente tutto per prima edizione. Un ringraziamento a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo tra poco con il giornale radio.